Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il nuovo appuntamento di oggi insieme all'Adico con Carlo Garofolini, presidente al telefono, ci porta a parlare di annunci sul web, ma sono annunci particolari. Benvenuto Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, dicevo, parliamo di annunci sul web, non sono quelli di vendo scarpe usate che non mi vanno più bene, ma sono ben altra cosa questi annunci, che sono saliti di molto, vero? Sì, come detto, questa volta si è voluto fare un'indagine su quelle che sono un po' le ragioni per cui le persone vendono i loro beni. E sulla base di quelle che sono le ragioni è emerso come quest'anno sono aumentati del 14% gli annunci di persone che vendono per causa trasferimento. Quindi questo per far capire come, se da un lato c'è stata una ricerca dell'Eurostat che ha dichiarato come il 46% degli italiani tra i 25 e i 34 anni vive ancora con i genitori, dall'altra i dati raccolti dall'Istituto Pugnolo e dell'Università Cattolica evidenzia come il 90% dei ragazzi è convinto che espatriare sia mai fondamentale per avere successo. Quindi i numeri che da una parte contrastano, ma anche dall'altra parte anche fanno capire come ci sono dei problemi anche generazionali che insomma inducono queste persone a compiere questo passo alla ricerca di lavoro e di fortuna, che in Italia sembra che ormai ce ne sia sempre meno. Ecco, io torno sul dato che hai detto prima, il 14% in più rispetto all'anno scorso, di gente che appunto non vende un singolo bene, ma cerca di liberarsi di tutto quello che ha per andare proprio fuori dall'Italia. Guarda, l'indagine è stata fatta su 15.000 annunci, quindi possiamo considerare il dato come un dato interessante. E nei beni causa trasferimento all'estero sono aumentati appunto del 14%. Dobbiamo dire che il 27% degli annunci dove l'inserzionista dichiara che sta per trasferirsi oltre confine viene pubblicato dalla Lombardia. Segue poi il Lazio il 12, la Toscana il 9, poi ci troviamo chiaramente al Mezzogiorno, ma anche il Piemonte, l'Emilia Romagna e il Veneto insomma hanno le loro percentuali. Però ecco un fenomeno che certamente magari non è certo al 100% sul fatto che queste persone vendono realmente perché si trasferiscono, ma certamente danno l'idea di quello che è un trend di cui le persone comunque per un motivo o per un altro ormai hanno poi in coscienza questa necessità e questa visione dell'estero come unica alternativa alle opportunità che, come detto, in Italia sono sempre più difficili di ricevere. È un quadro veramente particolare quello che viene fuori da questa indagine che voi dell'Adico avete voluto così segnalarci e che ci fa capire insomma come i tempi stiano cambiando. Io leggevo per esempio qualche giorno fa di un'azienda che aveva spostato tutto il lavoro sulla produzione in un'altra sede di un'altra città e quindi dice ai propri dipendenti: o vi spostate o per me non c'è niente da fare, insomma abbandonate il lavoro, no? Quindi c'entrerà anche questo? Beh, allora, prima di esponerti volevo anche concludere con altri due dati che ho a mente che poi magari mi dimentico. Ricordiamo che i beni messi in vendita sono case 28%, macchine, motori 16%, poi c'è la categoria lavoro dove la gente proprio si trasferisce come attività, e questo risponde un po' alla tua domanda, 14%, e dopo ci sono beni di elettronica, di arredamento, di attrezzature sportive che variano dal 13% all'11%. Per quanto riguarda quello che hai detto, purtroppo è così, è un fenomeno sempre più diffuso, le aziende cercano di andare a migrare dove il costo della manodopera è più basso, però anche dove, io aggiungo, la burocrazia è più semplice. Oggi ricordiamo che in Italia abbiamo una burocrazia che costa moltissimo alle aziende, abbiamo una burocrazia che è molto lunga e complicata, che causa un grandissimo dispendio di energie e di risorse, e certamente un assieme di tante cose purtroppo alimentano questo sistema. Curiosità, penso che qualsiasi ascoltatore ha avuto modo di incappare, come ormai ci sono dei fornitori che conoscono un po' tutti, di cui ognuno di noi un po' a che fare, per esempio che hanno il call center a Tirana, non più neanche in Italia come eravamo abituati, ma addirittura in paesi dove ci viene ancora più facile capire che la mano d'opera e queste altre ragioni costa molto meno rispetto che in Italia. Eh sì, tempi che cambiano ed evoluzioni del mercato del lavoro che insomma comportano dei cambiamenti nelle nostre vite. Grazie al presidente Carlo Garofolini che è stato con noi e che ritroveremo in un nuovo orario nell'appuntamento di lunedì prossimo con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie per Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.